una discussione sull'ambiente sonoro ovviamente non può prescindere da quella che è la situazione di gran parte dei lavoratori, situazione in questo caso acustica, che nella maggior parte dei casi presenta dei livelli di disagio notevoli. Per questo abbiamo organizzato, durante le manifestazioni di Suono Ambiente a Milano, una tavola rotonda sul tema ambiente acustico, inquinamento acustico. Ci sono state in Italia delle iniziative pionieristiche, direi, che hanno già indicato abbastanza chiaramente la strada da prendere, la strada da intraprendere per modificare lo stato di cose attuale. Vorrei citare a proposito il numero della rivista di Sapere del aprile 1977, numero che è stato intitolato Il rumore del padrone, e infatti si dedica esclusivamente ai problemi del rumore sui posti di lavoro. Voglio leggere un breve passo dall'introduzione. Certo, di rumore non si muore, o almeno si muore molto meno che di cancerogeni, ma di rumore, come molti lavoratori sanno, e come questa monografia di Sapere dimostra, si vive molto male. La presenza nell'ambiente di lavoro di cancerogeni può avere luogo senza che lo sappiano i lavoratori, ma a questi non può essere celata né l'esposizione al rumore né la reale efficacia di interventi di bonifica ambientale. Infatti, proprio il rumore e sordità sono al centro di numerosi interventi da parte dei lavoratori e delle loro organizzazioni. Di qui la proposta di una monografia sul rumore che verificasse in un nuovo settore della salute alcuni nodi cruciali del rapporto fra scienza e potere, tra organizzazioni operaie e istituzioni, tra lavoratori e tecnici, e che fornisse un retroterra culturale e scientifico per lo scontro tra lavoratori e padrone. C'è stato inoltre un esempio di autogestione di questa ricerca da parte di un gruppo di lavoratori a Castellanza, in Lombardia, che hanno pubblicato un libro che si chiama appunto Autogestione della salute. Il gruppo che lo ha compilato e pubblicato è il Gruppo Permanente di Lavoro per la Tutela della Salute del Centro di Medicina Preventiva del Lavoro del Comune di Castellanza a Varese. Questa iniziativa è tanto più significativa in quanto proprio avviene in un campo, cioè quello della percezione uditiva, che quasi esclusivamente viene delegato ai tecnici. Infatti, con la scusa che non ci intendiamo di musica, o che non si intendono di musica, molti rifiutano di essere coinvolti in un discorso sul suono non solo appunto come elemento estetico, ma sul suono come elemento della vita quotidiana. Mancano naturalmente mancano le condizioni necessarie per una più efficace diffusione di una cultura uditiva. Anche nelle scuole parliamo, scriviamo, disegniamo ambienti di lavoro, ma difficilmente si parla dei suoni di un ambiente di lavoro, dei suoni dell'ambiente in cui uno passa la maggior parte della sua giornata. E appunto è tanto più significativo che un gruppo di lavoratori è riuscito a mettersi insieme e a occuparsi in prima persona di questo problema. Alcune frasi dell'introduzione al libro in questione. Il materiale che presentiamo rappresenta il contenuto di un ciclo di lezioni tenutesi durante lo svolgimento del primo corso sulla medicina preventiva del lavoro presso il Centro di Medicina Preventiva del Lavoro del Comune di Castellanza. Le relazioni presentate sono il frutto del lavoro di un gruppo che ha dibattuto il problema nei suoi vari aspetti con i lavoratori ed assieme ad essi ha elaborato la documentazione qui presentata, facendo sempre riferimento ai problemi concreti della tutela della salute dei lavoratori. Da questo punto di vista, le relazioni concernenti l'uso del fonometro e dell'audiometro rappresentano dei momenti di appropriazione operaia attraverso una socializzazione di contenuti scientifici tradizionali che possono effettivamente costruire la non delega. I lavoratori, redigendo queste relazioni, si sono posti l'obiettivo primario di farne degli strumenti di lavoro a livello operaio, demistificando l'ormai logoro concetto che per apprendere conoscenze tecniche e scientifiche serve a un certo grado di scolarità, dimostrando al contrario nei fatti non solo che i lavoratori possono apprendere, ma che essi sono portatori di una nuova cultura priva dei filtri e dei compromessi istituzionali del sistema. Infatti, sarebbe importante che ognuno di noi riuscisse a prendere coscienza degli aspetti sonori del mondo che lo circondano. Abbiamo oggi un vasto numero di scienze che si occupano della ricerca sul suono. Una cosa che manca, e questo è stato rilevato anche da Schaefer, è un dialogo tra gli esponenti, sia scientifici delle varie discipline, tra coloro che si occupano dell'aspetto medico-sociale e anche di coloro che di suoni vivono o si occupano a tempo pieno, cioè i musicisti. È stata un po' l'idea principale dietro alla tavola rotonda di cui si è parlato prima e di cui sentiremo alcuni esempi tra un po', alcuni interventi, questo appunto di raccogliere intorno a un tavolo musicisti, ricercatori e operatori. Ora, il primo intervento di cui sentiremo una parte è quello del dottor Aldo Sacchero dell'Università di Milano. Io penso ad una nocività del rumore come ad una nocività che, proprio perché investe tutto l'organismo e lo interessa totalmente, provoca immediatamente una sensazione di malessere, di disagio profondo, importante direi, tanto quanto il suono provoca una sensazione di benessere. La musica provoca una sensazione di benessere che soggettivamente è avvertita ed avvertibile. In questo senso non c'è proprio nessun problema a far capire agli operai che il rumore fa male. Anzi, semmai è il tecnico che deve capire il messaggio dell'operaio, che gli dice in continuazione che il rumore fa male. E il problema invece è esattamente l'opposto. Il tecnico viene sempre a dire: se hai un mal di testa è perché hai mangiato troppo, o se ti viene la nausea è perché hai fumato troppo, o se ti viene l'infarto è perché hai fatto una vita sregolata, e se diventi sordo è perché non ti sei curata l'otite. Invece l'operaio dice: non è vero, io lavoro in un ambiente rumoroso. Il problema è, da questo punto di vista, e credo che questo ragionamento serva ad introdurre un concetto molto importante, che proprio dalla coscienza soggettiva precisa di questo essere esposti ad una nocività, avvertita come tale, come qualcosa che squilibria, che fa male, che deteriora l'organismo, che provoca alterazioni, disagio, da questa presa di coscienza, appunto, sono nate tutte quelle esperienze a gestione diretta operaia che hanno portato, da una parte, al riconoscimento reale e scientifico di alcuni effetti nocivi del rumore, che erano per esempio ignorati e che comunque non erano presi in considerazione, e dall'altra parte ciò ha permesso di iniziare un lavoro di bonifica dell'ambiente del lavoro e di modificazione